eroe. E se tu chiedi sulla nostra carrozza di metallo, e dalle casse suona la voce di un DJ, quasi come fosse un faro nella notte. Thank you.